Intesa San Paolo, Official Global Banking Partner di Expo Milano 2015. Vi presenta. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. David Letterman ha chiuso e, come avete sentito, ha salutato gli amici. Questo è stato un po' il senso anche di quest'ultima puntata, coloro che lo hanno accompagnato negli anni, coloro che lo hanno seguito, che lo hanno appoggiato e che sono venuti nell'ultima serata. Fra questi Jerry Seinfeld, Steve Martin, Tina Fey, Alec Baldwin, Jim Carrey, insomma è stata una carrellata di attori, di comici, di amici che sono venuti a salutarlo e a dargli un abbraccio. Insomma, devo dire che l'America è veramente, come dire, mesmerized, come si dice qui, abbastanza ipnotizzata un po' da questo fenomeno di chiusura di questi 33 anni del David Letterman Show, che è stato un po' lo specchio della coscienza del paese, uno specchio positivo, uno specchio dove con ironia, con educazione, con raffinatezza anche intellettuale si discuteva magari di problemi difficili del paese, ma si portava, come ha detto poi il presidente Barack Obama, nel messaggio che ha dato a David Letterman è proprio quello, che lui portava quella serenità, quel sorriso a milioni e milioni di americani che rientravano a casa stanchi dal lavoro. E il simbolo per me, per questo voglio farvelo sentire, di questa amicizia, quello con cui ha cominciato, con quello con cui ha finito, ve lo raccontavo già ieri, è Bill Murray. Ma c'è stata questa scena meravigliosa di Bill Murray che arriva in questa torta gigantesca e poi sfonda la torta, e tutto imbrattato di crema, da un grandissimo abbraccio all'amico David Letterman, lo sporca, aveva la giacca blu tutta sporca di panna bianca, eccetera eccetera. E dopodiché che combina Bill Murray? Chiacchierano un pochino, vabbè, i soliti convenevoli, e Bill Murray nella chiacchierata dice un po' quello che gli hanno detto tutti i suoi amici ieri sera: hai avuto capi di governo qui, caro David, hai avuto Bill Clinton è stato qui, il presidente Obama, George Clooney è stato qui, una battuta su cui naturalmente hanno riso tutto, e sei stato qua per un lunghissimo periodo di tempo e ognuno vuole cercare di farti rimanere, vogliamo che tu resti ancora e non ci arrendiamo. E a quel punto è partito un coro. And everyone's trying to get you to stay, we want you to stay and not give up, we just want more, Dave. Just more. Mm-hmm. More. More, non ci sarà un nuovo late night show con David Letterman, però ecco, qui c'è un, secondo me, un innuendo, perché poi che cosa ha fatto Bill Murray? È sceso per strada, tutto imbrattato di panna dalla testa ai piedi, con questi occhialoni, è sceso davvero per strada con le telecamere che lo seguivano sulla 52 e la 7, è andato sulla 7 Avenue, ha raccolto un gruppo di persone e le ha fatte cantare, le ha fatte mettere tutti in cerchio e le ha fatti cantare dicendo "All we are saying is more worldwide pants". Worldwide Pants è la casa di produzione di David Letterman, e il coro, il tono della canzone, è ispirato naturalmente a "All we are saying is give peace a chance" di John Lennon. Sentiamo. Can we sing if we sing loud enough? Ecco, questo per dirvi che cosa, che il buzz, quello di cui si sta parlando oggi, è: ma che cosa farà David Letterman? Davvero si ritirerà, come si è ritirato Seinfeld per esempio, come si è ritirato Johnny Carson quando lasciò il grande spettacolo Tonight Show, oppure si inventerà qualcosa di nuovo? Devo dire che a 68 anni sembra un ragazzino, è in ottima forma, ha la sua casa di produzione, e dunque in fondo questa passeggiata per strada di Bill Murray, suo vecchio, intimo, caro amico, può anche suggerire, come dire, un'idea che forse ci sarà qualcosa di nuovo. Vedremo. The White House on Wednesday released more than 400 letters, books, documents and reports seized during the 2011 raid in Pakistan that killed Osama bin Laden. Ieri abbiamo avuto una storia molto interessante perché il governo americano ha rivelato il contenuto dei documenti, delle decine di migliaia di documenti, molti erano stati salvati in dei dischetti, di Bin Laden. Ci sono le cose più diverse, però questi documenti ci danno un'immagine, come dire, un po' nuova di questo leader di Al-Qaeda. Intanto era fissato con le tattiche che si dovevano seguire dal punto di vista dell'azione, era ossessionato dall'immagine mediatica del gruppo, era preoccupato dalle spie occidentali, c'era questa sua battaglia per spingere la lotta e attaccare l'America, voleva attaccare l'America, non voleva dare spazio a coloro che volevano creare il califfato, è troppo presto, diceva, e attaccava quelli che volevano creare il califfato. Ecco, c'è stato un po' di ragionamento su questo e emerge una figura, come dire, di poca visione politica, emerge una figura molto attaccato alla sua famiglia, ma poi in grado allo stesso tempo di pianificare un attacco che ha fatto migliaia di vittime negli Stati Uniti, emerge una figura che perde rispetto ai suoi, come dire, nipotini di oggi, che con l'ISIS hanno conquistato territorio e hanno fatto molto, ma molto, ma molto di più di quello che ha fatto lui, e tutto sommato andava a bombardare delle ambasciate, cercava di fare degli atti terroristici. Oggi invece i suoi eredi, quelli che lui contestava, beh, stanno lanciando una sfida davvero molto difficile e che preoccupa sempre di più. Proprio ieri abbiamo avuto notizie di quanto gli Stati Uniti siano preoccupati per l'escalation dell'ISIS in Libia, dove stanno investendo, dove stanno mandando combattenti dall'Iraq, dove si sta cercando di prendere il controllo del territorio. Four big banks will pay $2.5 billion in fines and plead guilty to criminally manipulating global currency market going back to 2007. Ecco, infine non posso non accennarvi a una storia di cui ci siamo occupati ieri, ne abbiamo parlato a lungo con Sebastiano Barisoni in Focus Economia, dunque oggi ve ne parlerò un po' meno, ma ve la ricordo, la storia della multa da 5,6 miliardi di dollari a 5 banche internazionali, 5 grandi banche, 2 americane, JP Morgan Chase, Citi, Barclays e Royal Bank of Scotland, banche britanniche, e poi la UBS. La multa più cara, più salata alla Barclays. Cosa facevano? Beh, i trader di questa banca, con i capi che forse chiudevano un occhio, avevano organizzato un vero e proprio gruppo mafioso. Dobbiamo usare questo termine, un gruppo mafioso per controllare il mercato dei cambi. Attenzione, il mercato dei cambi è l'unico che non ha un exchange, i cambi valutari, scusate, è l'unico che non ha un exchange, perché la borsa ha un exchange, cioè un mercato ben regolato, il cotone, il tabacco, insomma tutte le materie prime hanno tutti un mercato molto ben regolato, i cambi non ce l'hanno e costoro hanno approfittato di questa mancanza per mettersi d'accordo, speculare e danneggiare poi coloro che venivano costretti ad acquistare ad un cambio che loro avevano innalzato o diminuito a seconda dei profitti che potevano mettere insieme. È un problema, si cercherà di risolverlo, magari di questo vi parlerò più approfonditamente della ipotesi di soluzione. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter @MarioPlatero. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! Intesa San Paolo, official global banking partner di Expo Milano 2015. Vi ha presentato America 24.